Olaf Palme, il mistero svedese che rimane tale, Sirte, la battaglia per la nuova Libia, benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. You cannot reach security by increasing the arms race, piling with ever larger quantities of weapons. The UN-backed government, the GNA forces, advanced to control Al-Wishka area, which is 90 kilometers before Sirte. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, 16.08, 5 secondi in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. La squadra è sempre quella, Antonio Tali, Lara Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi in assistenza Elisabetta Fusconi e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, lo conoscete bene, il numero per inviare sms e whatsapp, anche se preferite il secondo strumento ormai evidentemente. Per fare cose, per commentare e per porre domande sui due temi che tratteremo quest'oggi. Lo potete fare anche attraverso i social, la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 e ricordiamoci anche Twitter Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. I due temi che vi propongo di quest'oggi. Questa mattina alle 9.30 in Svezia c'è stata una conferenza stampa che dai rumors, come si dice in gergo tecnico, avrebbe finalmente fatto luce sull'omicidio di Palmer il 28 febbraio del 1986, il premier svedese che aveva dato un'impronta totalmente nuova alla Svezia, che avrebbe segnato inesorabilmente la politica e la società di quel paese, veniva ucciso da un assassino in un pieno centro. Palmer era con la moglie, usciva dal cinema, aveva dato l'ok, il via libera alla scorta, e quella serata, fra l'altro, almeno 20 testimoni non sono riusciti a riconoscere l'assassino. 34 anni dopo, secondo gli annunci della magistratura svedese, si sarebbe dovuto fare luce. Così non è, e vi racconteremo meglio nei dettagli che cosa è accaduto e cosa è stato detto questa mattina. Poi andremo in Libia perché, lo abbiamo raccontato spesso in questa trasmissione, ormai l'esercito di al-Sarraj ha messo la quinta, viaggia veloce verso Sirte, e Sirte, che è una città libica importantissima, una vera e propria porta d'accesso alla Cirenaica, è nel mirino, è il caso di dirlo, nell'obiettivo di al-Sarraj e del suo esercito. Che cosa accadrà adesso? Parlerà la diplomazia o parleranno ancora le armi? Per voi, 349-238-6666, sempre per voi, i nostri dossier. Lo ricordo, i dossier internazionali che sono qui sul tavolo della redazione di Nessun Luogo Lontano sono tutti fatti che catalizzano la nostra attenzione, che sono stati magari approfondimenti di Nessun Luogo Lontano e diventeranno molto probabilmente nuove puntate di questo programma. Il primo ci porta in Nigeria, sarebbero 69 le vittime di un attacco avvenuto nello stato di Borno, Nigeria nord orientale, l'ex roccaforti o in parte ancora roccaforti di Boko Haram, la formazione islamista che da anni ingaggia una lotta senza tregua con l'esercito di Abuja. Siamo in un remotissimo villaggio, si chiama Felo, il distretto è quello di Gubbio. Uomini armati sono entrati radendo al suolo tutte le abitazioni, uccidendo senza distinzioni uomini, donne e bambini e rubando il bestiame. Non v'è stata alcuna rivendicazione, perché le due tesi che si alternano potrebbero essere: da una parte attribuire l'attacco a Boko Haram, dall'altra invece a una più semplice, con tutte le virgolette del caso, tensione etnica derivante dal possesso di questo bestiame. Il problema è che, secondo Reuters, alcuni abitanti del villaggio avrebbero dato informazioni rilevanti sulle ultime posizioni dei militanti jihadisti di Boko Haram proprio all'esercito, all'intelligence di Abuja, e quindi l'attacco sarebbe stata una vera e propria ritorsione. Altri dicono, lo rivela l'AFP, Agence France-Presse, i locali avrebbero ucciso dei combattenti jihadisti nell'atto di tentare di rubare il bestiame da lì. La vendetta, però, ripeto, finché non ci sarà la rivendicazione non possiamo attribuire a Boko Haram questo ennesimo attacco. Lo ricordiamo, un esempio e un fatto su tutti: nel 2014 il rapimento delle 200 studentesse a Chibok, poi però Abuja, che riesce a rintuzzare gli attacchi, riconquista soprattutto Maiduguri, la capitale dello stato del Borno, che era un po' il simbolo, dove campeggia quella grande moschea dove Mohamed Yusuf, il primo leader di Boko Haram, faceva le sue prediche infuocate contro l'Occidente e l'educazione occidentale. Boko Haram infatti significa l'educazione occidentale è vietata, quindi una visione dell'Islam totalmente distorta e intransigente. Questa è tra gli obiettivi di Boko Haram per il momento. Però, benché l'insurrezione abbia creato nel corso di, pensate, oltre 10 anni, almeno 30.000 vittime e milioni di sfollati, l'esercito di Abuja riesce più o meno a tenere sotto controllo quantomeno i confini nigeriani. Su Niger e Chad invece i problemi ci sono ancora. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo ve ne darò conto, non prima di raccontarvi che cosa, che l'autorità palestinese ha dichiarato di aver inviato al cosiddetto quartetto, che sono Nazioni Unite, Unione Europea, Stati Uniti e Russia, una controproposta sul famoso, ma per loro famigerato, piano del Medio Oriente, sul Medio Oriente proposto dal presidente Donald Trump oramai qualche mese fa. Questa mossa diplomatica prevederebbe come controrisposta l'istituzione di uno Stato palestinese sovrano ma demilitarizzato nella Cisgiordania occupata e nella striscia di Gaza, con Gerusalemme Est come capitale e territorio integrante del nuovo Stato. La proposta palestinese lascia quindi la porta aperta alle modifiche del confine tra lo Stato proposto e Israele, oltre che a scambi territoriali per attenzione uguali per dimensioni, volume e valore. Nel piano di Trump c'era sostanzialmente un 70% e un 30% da dividersi tra annessione israeliana e palestinesi. Il punto qual è? Che molta parte dei territori che Netanyahu, soprattutto il Likud, vuole adesso un governo in rotazione con Benny Gantz, vuole annettere, dicevo, sono territori molto ricchi e molto fertili e ricchi anche di corsi d'acqua. È questo, la guerra dell'acqua, è una delle tante sottoguerre, se volete, che consentono anche di leggere il conflitto in corso. E poi in Sudan, perché il leader della milizia Janjaweed, Ali Kushaib, è sotto la custodia della Corte Penale Internazionale dell'AIA. Lo riporta la BBC Africa, aggiungendo che il miliziano si è arreso alle autorità nella Repubblica Centrafricana, dove evidentemente si era rifugiato da parecchio tempo. Ecco, segnatevi questo nome, Janjaweed, ai molti non dirà tanto, ma erano i cosiddetti diavoli a cavallo, responsabili di genocidio nella regione del Darfur e poi utilizzati come milizia da Omar al-Bashir, il vecchio capo presidente dittatore del Sudan, in innumerevoli operazioni contestatissime. Pensate che Kushaib, il leader della milizia Janjaweed, era ricercato per una cinquantina di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra i quali omicidio, stupro e tortura. Il suo mandato d'arresto era stato spiccato, pensate, 13 anni fa e fino adesso non era stato trovato. Infine, l'ultimo dossier è quello burundese, perché in Burundi, ricorderete, abbiamo dedicato una parte di una puntata di Nessun Luogo Lontano in occasione delle elezioni presidenziali. Pierre Nkurunziza, il presidente che tanti tumulti aveva creato decidendo di candidarsi per la terza volta nel 2015, violando così la Costituzione, aveva poi ritirato la sua candidatura, ma aveva nominato un delfino che poi immancabilmente era stato eletto, Evariste Ndayishimiye. Adesso Ndayishimiye è capo dello Stato dal 20 maggio e Nkurunziza in questo momento avrebbe dovuto brindare, se non fosse che, gesto folle del destino, un attacco cardiaco a 55 anni lo ha spento, con il cordoglio di tutti i più alti funzionari della Repubblica del Burundi, mentre gli analisti, soprattutto i difensori dei diritti umani, pregano e sperano che con la sua morte quantomeno si apra una stagione in cui si riescano a trovare i responsabili delle tante violazioni, le violenze e le violazioni dei diritti umani che Nkurunziza in questi ultimi 5 anni ha compiuto sistematicamente. Allora, 349-238-6666, c'è qualcuno che scrive visione distorta dell'Islam, facendo riferimento a Boko Haram, non mi pare, visto i crimini che l'Islam continua a compiere in tutto il mondo, troppo comodo dire che non è vero Islam, non è troppo comodo, è così, è una visione oltranzista, totalmente minoritaria all'interno del mondo musulmano. Andate a vedere chi sono, anzi, gentile ascoltatore lo sa, chi sono i principali obiettivi di Boko Haram, formazione jihadista islamista nel nord-est della Nigeria, i musulmani moderati, sono loro le principali vittime, cristiani quasi non ce ne sono e sono proprio loro nel mirino di questa formazione. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Adesso però, Valeria Bernardi, andiamo in Svezia. I think so. The moment Nel momento in cui le persone cominciano a pensare alla morte, cominciano a spaventarsi. Non osano più e perdono la loro vitalità. Fintanto che siamo qui, condannati a questa esistenza, dobbiamo cercare di rendere la nostra vita quanto più decente possibile. E questa è la base della mia ideologia politica. La politica esiste per questo. Avete appena sentito una intervista molto datata, era il 1969. Olof Palme rispondeva così a David Frost in una celebre intervista alla domanda come vorrebbe essere ricordato dopo la morte. E questa frase in qualche modo è diventato un testamento non soltanto politico ma anche in qualche modo sentimentale, potremmo ribattezzarlo il senso della politica ma anche il senso di Palme per la politica stessa. Stamattina si è compiuto un atto giudiziario di comunicazione particolarmente controverso. Erano girati varie indiscrezioni secondo cui i magistrati svedesi avrebbero finalmente rivelato con certezza l'assassinio dell'ex premier svedese. Si era vociferato che fosse stata trovata persino l'arma, un mistero delle nebbie che hanno avvolto il paese scandinavo per ben 34 anni. Così non è stato, perché la colpa di questo assassinio è stato attribuito a una persona che si è tolta la vita nel 2000. Tra pochissimo vi racconteremo meglio chi era. Prima però le reazioni in Svezia. In un'intervista alla radio pubblica svedese, il figlio di Olof Palme, Martin, che la sera dell'omicidio era al cinema con i genitori, ha detto di essere convinto che a uccidere il padre sia stato Stig Engström. Penso che il colpevole sia Engström, ma purtroppo non ci sono prove che indicano al 100% la sua colpevolezza. Mi sembra ragionevole chiudere l'indagine preliminare. Infatti il giudice ha deciso, dato che l'imputato principale si è tolto la vita nel 2000, di archiviare il tutto. Subito dopo la conferenza stampa, il quotidiano Expressen ha raccolto i commenti di alcuni esperti, avvocati, criminologi, che sono risultati molto critici sulle conclusioni di questa inchiesta. Pensate che addirittura un criminologo e scrittore svedese, Persson, ha definito l'esito di questa inchiesta una colossale delusione. Delusione espressa anche da parte della giornalista e scrittrice Lena Anderson, da tempo interessata all'omicidio di Palme, che ha parlato di fallimento totale e di scandalo, sottolineando che le informazioni fornite nella conferenza stampa di oggi sono le stesse a cui tutti abbiamo accesso, cioè le testimonianze del 1986, le immagini della televisione. Persino il capo della Federazione della Polizia dice di aver sperato che l'inchiesta portasse a maggiori risultati. Il punto nevralgico, il vulnus, se volete, di questa inchiesta è che 34 anni dopo i testimoni sono sempre quelli, non si sono trovate nuove voci, nuovi occhi indiscreti in quella via centrale di Stoccolma, e addirittura molti dei testimoni sono deceduti, sono morti di vecchiaia. Un altro quotidiano svedese, l'Aftonbladet, ha detto incomprensibile e scandaloso. I giornalisti hanno sentito 7 esperti, anche qui avvocati, criminologi, cronisti, secondo cui l'omicidio di Palme non è affatto risolto. Nessuno crede che Engström sia il colpevole dell'omicidio. Questo Engström, che è stato indicato dai giudici come possibile colpevole, era sul luogo del delitto, era una persona affetta da problemi di alcolismo, non aveva simpatia alle politiche di Palme, andava regolarmente al poligono, quindi era addestrato e capace di utilizzare le armi. La moglie, in una recente intervista nel 2017, lo riporta alla BBC, lo ha definito un codardo puro al 100%, tanto che non avrebbe potuto fare male a una mosca, respingendo così al mittente qualsiasi possibilità che il marito possa, quella sera del 28 febbraio 1986, aver premuto il grilletto. Tra gli hashtag di tendenza in Svezia in queste ore ci sono soprattutto hashtag omicidio di Palme, migliaia di tweet, e poi soprattutto Skandiamannen, con lo svedese non sono particolarmente pratico, cioè il soprannome dato dalla stampa svedese proprio a Engström, perché lavorava per Skandia, che è questa società di assicurazione, così l'epiteto gli si è appiccicato negli ultimi anni. Vi faccio sentire innanzitutto, prima di introdurre il nostro ospite, la voce di Jan Stoklassa, che è un ex diplomatico svedese, autore di The Man Who Played With Fire, cioè il libro che riprende le indagini del giornalista e scrittore Stieg Larsson, lo ricorderete, l'autore della trilogia Millennium, sul caso Palme. E sentite come racconta la reazione della società svedese. The unanimous reaction to this in Sweden is actually that this is too weak. We don't understand that. How can they at all say that we will present the solution to this? Mi sembra che la reazione unanime in Svezia in questo momento sia che le conclusioni di questa indagine sono deboli, dice l'ex diplomatico. Non si capisce come queste conclusioni possano portare a una completa soluzione di un omicidio il cui mistero dura da 34 anni. Non abbiamo visto prove nuove, nulla di nuovo. Mi pare che tutto quello che contrasta la teoria degli inquirenti venga guardato dall'alto in basso. Quella che è arrivata oggi mi sembra una spiegazione ridicola, e questa non è la fine del caso, ma solo l'inizio di un nuovo capitolo delle indagini sul caso Palme. Buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano a Paolo Borioni, che è professore alla Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma, autore anche di un libro molto interessante, Svezia, storia d'Europa nel XX secolo, Unicopli. Buongiorno professor Borioni, benvenuto. Salve, salve, grazie, bentrovati. Allora, innanzitutto le chiederei una prima reazione, se vuole anche emotiva, di pancia, se vogliamo, perché quando un mistero dura 34 anni e quando un mistero avvolge una figura così importante e ingombrante come quella di Olof Palme, forse anche abbandonarsi per un attimo ai sentimenti, anche per un accademico, io glielo concedo, professore, mi dica lei. Sì, sì, ma io rischio brutto da questo punto di vista, perché sentendo le parole che avete lanciato all'inizio, in cui Palme dice appunto, voi con senso giornalistico e capacità di cogliere il personaggio avete individuato bene questo fatto, insomma, lui in quel momento, diciamo, e tra l'altro proprio in quel momento, ecco, questo volevo aggiungere, lui prende la guida della socialdemocrazia svedese, no? Che è il partito, diciamo, che da decenni e ancora per decenni avrebbe governato il paese, portato oltre ogni altro paese, insomma, la riforma cosiddetta, loro erano socialdemocratico, la riforma democratica del capitalismo, e ha dato un'impronta internazionalista pro movimenti di liberazione alla politica estera della Svezia. Quindi, insomma, sembra destino, no, in quelle parole adesso. Sì. Ne parliamo meglio. Sì. La voce e l'analisi del professor Paolo Borioni, Scienze Politiche, La Sapienza di Roma, autore peraltro di un libro proprio sulla recente storia svedese, la cui scrittura in parte è anche dovuta evidentemente alla figura di Olof Palme, che propongo di andare a risentire, a rinquadrare il professor Borioni in appena 90 secondi. Sentiamo insieme. Sven Olof Joachim Palme, il primo ministro il cui omicidio rimane ancora oggi il caso più sconvolgente della storia svedese, nasce a Stoccolma nel 1927 da una famiglia benestante e conservatrice. Durante gli anni dell'università si avvicina al Partito Socialdemocratico, di cui sarà il presidente dal 1969 fino alla sua morte. Palme diventa uno dei più importanti uomini politici di tutta la Svezia. Ottiene numerosi incarichi di governo e ricopre il ruolo di primo ministro per due lunghi mandati, tra il 1969 e il 76 e dal 1982 all'86. In politica interna, Olof Palme consolida e allarga lo Stato sociale con l'obiettivo di ridurre le diseguaglianze sociali. Le riforme da lui introdotte, secondo storici e osservatori, hanno plasmato la Svezia attuale e influenzato tutte le socialdemocrazie scandinave. Ma contrariamente ai suoi predecessori, Palme è anche molto attivo in politica estera. In piena guerra fredda, rifiuta di allinearsi ai due blocchi dominanti, Stati Uniti e Unione Sovietica. I would say that as... Gli americani stanno ancora portando avanti una guerra piuttosto imponente nel Vietnam del Sud e bombardano le città sudvietnamite. Voglio dire, queste azioni sono il principale ostacolo alla pace. Critica con la stessa durezza sia la guerra in Vietnam sia l'invasione sovietica dell'Afghanistan, alla ricerca di una terza via sullo scacchiere internazionale per i paesi non allineati come la Svezia. Sostiene le campagne internazionali contro la proliferazione delle armi nucleari e le sanzioni contro il Sudafrica dell'apartheid, che definisce un regime particolarmente raccapricciante. Tra il 1980 e il 1982, inoltre, svolge il ruolo di mediatore internazionale nella guerra tra Iran e Iraq. È terribile che lo abbiano ucciso. È un disastro. Non so cosa dire. Il primo ministro svedese viene assassinato la sera del 28 febbraio 1986, mentre sta tornando a casa a piedi con la moglie Lisbeth dopo una serata trascorsa al cinema. Un uomo gli spara alle spalle da distanza ravvicinata, uccidendolo sul colpo. Il caso Olof Palme rimane insoluto per 34 anni, diventando una vera e propria ossessione che pesa sull'intera società svedese. Professor Borioni, quale eredità politica ha lasciato un uomo come Palme sulla Svezia e anche sull'Europa, forse moderna, attuale anzi? Come eredità politica, diciamo, un passato diverso dall'attuale, no? Nel senso che oggi lui cercava distanziarsi dai due blocchi, anche insieme a altri colleghi, come per esempio Willy Brandt, che era tedesco, che era membro NATO, quindi, ma nel senso di la sua idea era quella di operare in favore dei movimenti di liberazione o dei paesi già decolonizzati, ma dando loro la possibilità di partecipare al commercio internazionale, in modo equo, no? Modo che da protagonisti, diciamo così. E questo perché aveva un'idea della stabilità che non era fatta solo di equilibrio del terrore, delle armi, no? Da paese neutrale, no? Ma da cambiare i modelli sociali. Sì, una sorta di nuova grammatica, professore, che tu se la interrompo, una nuova grammatica diplomatica, e fra l'altro dando anche dei belli schiaffoni a qualche regime del tempo, perché quando si scagliò contro il Sudafrica dell'apartheid, da lì peraltro una delle piste molto seguite fu proprio quella del Sudafrica. Se dovesse scegliere, professor Borioni, un fronte o un dossier sul quale più ha lasciato il segno Olof Palme, quale sceglierebbe? Più la politica estera, lo Stato sociale svedese, questa sinistra, se vogliamo, illuminata all'epoca, che riusciva a bilanciarsi tra l'est e l'ovest? Sì, lui è nato innanzitutto quando venne accusato, per esempio, dagli Stati Uniti di essere stato troppo drastico sulla loro condotta in Vietnam. Lui diceva sempre: ma guardate, io ho sempre criticato anche l'Unione Sovietica, nel senso che il suo socialismo era totalmente diverso da quello sovietico. E, la politica interna, diciamo. Quando lui arriva al governo, la socialdemocrazia ha già governato una trentina d'anni. E lui si inserisce più su un dossier di politica estera, forse qui cambia di più. E voi prima avete detto una cosa importante, cioè lui proviene dall'altissima borghesia svedese. Sì. Allora questo suo, proprio molto rapidamente, viene ucciso in un momento in cui la socialdemocrazia ha perso per pochi anni il governo e lo riconquista nell'82, e lui rilancia questa capacità di costruire l'immagine e la politica estera svedese su questa idea di internazionalismo del socialismo democratico. E il dossier sudafricano, che è ancora aperto perché l'apartheid finisce ancora anni dopo la sua morte, potrebbe essere sembrato ad alcuni a cui non stava bene questo ritorno, ma questi adesso rigovernano altri 30 anni, per altri 30 anni, sì. No, capito? Sì. Un dossier così potente che avrebbe potuto far tenere il potere ancora per tanto tempo. Professor Borioni, la devo interrompere, fra l'altro fra poco sentiamo anche la voce proprio di Palme sul sostegno all'African National Congress, all'epoca diciamo non era ben visto dal governo sudafricano. Vrela Bernardi, andiamo a sentire la borsa e poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Continuiamo a provare a scrivere quello che è accaduto stamattina, una conferenza stampa annunciata in pompa magna, la magistratura svedese che fa filtrare indiscrezioni, sarebbe stato risolto il caso dell'omicidio di Olof Palme, così non è stato perché l'indiziato principale, quell'impiegato di quella della Scandia, di quell'agenzia, di quella impresa di assicurazioni, si è poi tolto la vita nel 2000. Sdegno, gridato a gran voce da parte della società svedese, e il mistero sostanzialmente rimane. C'era a un certo punto una pista sudafricana, perché? Beh, è molto semplice, perché durante i tempi dell'apartheid Olof Palme si era scagliato anche contro quel regime, per lui ai suoi occhi assolutamente inqualificabile. Sentite. Abbiamo sostenuto l'ANC per più di 20 anni e continueremo a farlo, ma la situazione in Sudafrica sta peggiorando, perciò il governo ha deciso di aggiungere altri 5 milioni di corone svedesi a supporto dell'ANC e del lavoro umanitario. Così Olof Palme annunciava l'ulteriore sostegno all'African National Congress, quel movimento partito di Nelson Mandela, ma ancora l'apartheid esisteva, come ricordava anche il professor Paolo Borioni, Scienze Politiche, Università della Sapienza di Roma. Professor Borioni, forse questo è stato uno dei fronti tra i dossier internazionali sui quali più ha battuto, no, Olof Palme? Senza dubbio, e c'è da dire di più, che alcuni anni fa l'allora ambasciatrice svedese in Sudafrica, nei secondi anni Ottanta, ha rivelato che i soldi erano molto di più all'ANC, erano fino a 1 miliardo di corone, quindi la minaccia era seria per il regime sudafricano. E siccome, come dicevo prima, Palme era anche odiato in patria, anche sì. Altri suoi collaboratori, ministri, Schellhorn-Feld per esempio, ha detto che lui spesso, stando con Palme anche a vedere il tennis, aveva l'impressione che la gente lo guardasse con orrore. Con odio. E quindi forse, siccome è poi anche emerso che c'erano degli infiltrati, chi faceva il doppio gioco nei servizi segreti svedesi, in contatto con quelli sudafricani, magari non è che hanno mandato proprio un sicario, però sì. Magari ecco questo che si è suscitato 20 anni fa, Stig Engström, o anche un altro, Christer sì. Pettersson, che pure era stata una figura simile, poi scagionato, eccetera, potrebbe essere stato armato qualche odiatore o qualche balordo, eccetera, no? Montato, no? Sì. Qualcosa del genere. Questo potrebbe essere. E da quello che è successo negli ultimi anni sembrerebbe una pista. E io mi aspettavo una cosa del genere, ecco, da oggi, che mi dicesse una cosa sì. un po' più chiara, più evidente. Invece hanno detto solo: secondo me potrebbe essere Engström, e la pista sudafricana non è da escludere. Insomma, vabbè, lo sappiamo tutti. Sì, ecco, sì, sì. Infatti anche i commenti dei giornalisti svedesi esatto. erano di quella risma. Professor Borioni, a questo punto le chiedo un enorme sforzo di sintesi e quasi da copywriter sì, certo. pubblicitario. Proviamo. Lasciamoci con uno slogan. La ferita svedese è rimarginata, è ancora pulsante, no. sgorga sangue. Ci dia un'immagine, insomma, per capire questo mistero che continua a aleggiare. Assolutamente, mi sembra qualcosa che possa, appunto, rimanendo nell'irrisolto, possa continuare ad essere utilizzata e manipolata da chiunque abbia interesse a farlo nei prossimi decenni. E noi sappiamo qualcosa, no? Ecco, di questo certo, tipo di manovre. Certo, no, purtroppo. Quindi, dire, anche i misteri della politica italiana poi sono stati strumentalizzati. Grazie mille per questa visione molto lucida, forse un po' cinica, ma voglio dire, mi sembra assolutamente lucida, e cinismo a volte. Prima capire, poi giudicare. Esattamente, no? Quindi ringrazio il professor Paolo Borioni, lo ricordo. Buonasera. Scienze Politiche, Sapienza di Roma, buona serata e buon lavoro. Ancora la voce allora di Jan Stoklassa, ex diplomatico svedese, autore dell'Uomo che giocava col fuoco, il libro che riprende le indagini del giornalista Stig Larsson. L'abbiamo solleticato, l'ha fatto Antonio Talia, sull'ipotesi, sulla pista sudafricana. Sentite cosa dice. Well, until yesterday there were two competing theories that everybody was speaking about. It was the lone killer, the Scandia man, and there was the possibility of a connection to South Africa, that the South African apartheid regime had actually organized the killing of our prime minister. E come sentite, parla di due teorie confliggenti, quella dell'uomo di Scandia e poi il collegamento col Sudafrica, secondo la quale il regime dell'apartheid avrebbe ordinato l'omicidio del nostro primo ministro. Durante la conferenza stampa di oggi, continua l'ex diplomatico svedese, è emerso che gli inquirenti avrebbero sostenuto la tesi dell'assassino solitario e tutti si aspettavano che sarebbero state prodotte prove del DNA, referti balistici, magari qualche nuovo testimone, ma non è stato così. Allora, 349-238-6666, è arrivato il momento di chiudere questa pagina. È come se, se fosse un pezzo scritto, giornalistico, la parola fine non ci sarebbe, ecco. Rimangono, io ho come sospetto che la società svedese, anche tanti giornalisti, cronisti, reporter che hanno cercato di raccontare questi 34 lunghi anni, adesso si rimboccheranno nuovamente le mani e cercheranno di fare luce su questa incredibile storia. Palme era sicuramente un personaggio carismatico, ingombrante, amatissimo, odiatissimo, ed è forse giusto sapere la verità. Adesso però andiamo in Libia. E mentre andiamo in Libia, grazie a Valeria Bernardi, c'è qualcuno che avanza un'ipotesi: quanto battage solo per coprire i fallimenti svedesi sul Covid? Questa è una tesi che qualcuno ha sussurrato e ha avanzato. Lo sapete che da oggi o da qualche giorno non si danno più i dati giornalieri, sapete quanto controversa è stata la politica attuata dagli svedesi, lo stesso virologo che ha consigliato il governo sull'assenza di lockdown sostanzialmente ha fatto retromarcia, l'abbiamo detto proprio in questa trasmissione, ha detto avremmo potuto forse comportarci come gli altri paesi europei ed evitare altri morti. Detto ciò, 349-238-6666, c'è qualcuno che torna sul caso Boko Haram e mi accusa di non voler vedere che i cristiani nel mondo sono cittadini di serie B, ma non è affatto vero che non lo voglio vedere. L'islamizzazione forzata dell'Africa è sotto gli occhi di tutti tranne i suoi, mi dice, ma non è affatto vero perché l'abbiamo raccontato in tante puntate in Nessun Luogo Lontano. E poi io sospetto, gentile ascoltatore, da come scrive, da quello che scrive, che lei nel nord-est della Nigeria con tutta onestà non ci sia stato. Credo che lei non sia stato a Maiduguri, abbia visto la moschea dove predicava Mohamed Yusuf. Io sono andato anche nella chiesa di Maiduguri, ho parlato con delle suore, con dei cristiani, ho parlato con i militari nigeriani. Ecco, forse un pizzico di conoscenza in più del territorio mi consente di avere una valutazione il più possibile netta e oggettiva, per carità, questo sicuramente sono fallace, come tutti e come tutti quelli che cercano di riportare quello che hanno visto. Però le assicuro che la prima vittima di Boko Haram è proprio la comunità musulmana, soprattutto quella moderata, e l'imam che non si piegavano a quel messaggio benefico nel nord-est della Nigeria. Qualcun altro scrive e ha ragione che ci sono corresponsabilità governative, magari ci torneremo sulla questione Boko Haram. Per qualcun altro scrive addirittura assurdo il silenzio della comunità internazionale. In realtà, dopo il rapimento delle 270 ragazze di Chibok, che tanto sgomento ha creato, anche Michelle Obama era scesa in campo per, con quell'hashtag Bring Back Our Girls, riportiamo a casa le nostre ragazze. Ma se andiamo indietro nel tempo, nel 2012 Abuja, la sede dell'ONU, fu oggetto di un attacco da parte di Boko Haram. La comunità internazionale se n'è occupata, soprattutto quella africana, perché ci sono degli eserciti, quelli di Niger e Chad e Camerun per esempio, che si sono messi insieme per tentare di sconfiggere questo cancro che sta attanagliando il nord-est della Nigeria. Detto ciò, andiamo in Libia e quindi saluto immediatamente Umberto Profazio, analista del NATO College Foundation. Umberto, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, le ultimissime notizie ci dicono che l'appello al Cairo per un cessate il fuoco lanciato dal califa Haftar, dal generale col supporto dell'Egitto, è nato morto, l'ha detto il ministro degli esteri turco Cavusoglu. E sostanzialmente Sarraj respinge al mittente uno slogan, poi facciamo una piccola pausa e torno da te Umberto Profazio. L'obiettivo è prendere Sirte? Credo di sì. Ok, allora strade, poi torniamo. Nessun luogo è lontano. E ancora una buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, se solo adesso vi siete sintonizzati. Questo è Nessun Luogo Lontano e questa è la seconda pagina di Nessun Luogo in Libia per quella che si preannuncia una battaglia cruciale, quella per Sirte. Al-Sarraj, sostenuto dalla Turchia, mette la quinta e viaggia veloce sull'importante città, una cerniera tra la Tripolitania e la Cirenaica. Umberto Profazio, la domanda è di un ascoltatore, 349-238-6666, a cui Profazio, analista, esperto di Libia del NATO College Foundation, spero darà una risposta. Haftar aveva promesso una vittoria facile e veloce ai suoi sostenitori, Egitto, Emirati, Russia, che abbiano perso fiducia in lui prima la ritirata dei mercenari russi. Ora il cessate il fuoco proposto dal Sisi, Haftar o si arrende o verrà annientato. Sei della stessa idea, così manichea in qualche modo? Ma credo sostanzialmente che la controffensiva che è stata lanciata dal Government of National College nei, da marzo scorso abbia sostanzialmente ribaltato l'andamento delle operazioni. Ricordiamo che Haftar aveva lanciato l'offensiva contro Tripoli nell'aprile del 2019 e invece deve essere costretto a battere in ritirata. Ecco, credo che dal punto di vista militare e da quello politico le sorti di Haftar siano segnate. La maggior parte dei suoi sponsor regionali e internazionali stanno valutando la possibilità di trovare una soluzione alternativa per cercare di difendere per quanto possibile la profondità strategica di uno stato confinante con la Libia. Stiamo parlando qui dell'Egitto, certo, che ha sempre avuto sostanziali dubbi riguardo le capacità militari di Haftar di prendere Tripoli, e per questo ha sempre cercato di porre fine all'offensiva, perché sapeva che un eventuale collasso dell'LNA avrebbe provocato delle ripercussioni lungo il suo confine occidentale con la Libia. Sì. E nelle parole di Umberto Profazio, analista NATO Defense College, ancora una volta una complessità è l'unica parola che possiamo utilizzare per cercare di descrivere quello che sta accadendo in Libia. Invece forse è un po' più facile raccontarvi in appena 60 secondi perché Sirte è così importante. Sirte, città affacciata sul Golfo di Sidra, nel passato porta d'accesso alle carovane dirette verso l'Africa centrale, oggi rappresenta l'anello di congiunzione che unisce le due anime del paese, la Tripolitania e la Cirenaica. 120.000 abitanti, città natale dell'ex dittatore Muammar Gheddafi, Sirte diventò la vetrina della rivoluzione del Rais, abbellendosi e arrivando a ospitare importanti dipartimenti governativi, oltre al Parlamento libico. Nel 1999 la città è stata protagonista della Dichiarazione di Sirte, atto fondativo dell'Unione Africana, fortemente voluta e cospicuamente finanziata dal leader libico. Mercato agricolo famoso per i suoi datteri, Sirte è diventata un importante porto commerciale e un centro petrolifero. Dominata dalle tribù lealiste a Gheddafi, la città è stata l'ultima roccaforte del Rais durante la guerra civile e luogo dove il dittatore ha trovato la morte. Diventata il centro più importante dello Stato Islamico nel 2015, la città è poi stata liberata dal governo di accordo nazionale guidato da Fayez al-Sarraj. Occupata a gennaio dalle forze del generale Haftar durante la sua cavalcata verso Tripoli, Sirte è diventata l'obiettivo principale della controffensiva del GNA in questa fase del conflitto. La stretta sulla città va interpretata in relazione al valore simbolico del luogo, alla presenza di importanti terminali petroliferi e alla posizione strategica che il centro ricopre. La Libia non sarà mai completata senza il suo est. L'avanzata di Tripoli non si ferma. Non abbiamo iniziato questa guerra, ma la finiremo. Sono le dichiarazioni che guidano oggi le rinvigorite forze di Sarraj, ormai alle porte della città. E così l'importanza strategica, ma anche storica, commerciale, economica, anche simbolica, se volete, della città di Sirte, con Umberto Profazio, analista del NATO College Foundation. Stiamo cercando di capire meglio quali saranno le prossime mosse di Sarraj, e su questo Profazio ha messo qualche punto fermo. Però c'è un grande punto di domanda, e la storia recentissima ce la insegna, Umberto, perché come suggerisce un ascoltatore, in realtà credo sbagliando il nome della brigata, perché scrive la brigata 903, volte la faccio un'altra volta, se non erro era la brigata 604, che quando Haftar si presentò alle porte di Sirte, all'epoca Sirte era ancora sotto il controllo di al-Sarraj, e sostanzialmente aprì i cancelli della città e permise una rapida presa della città natale di Gheddafi. Un'altra ascoltatrice, Umberto, che scrive: ma perché l'Egitto non interviene in aiuto ad Haftar? Beh, l'Egitto è già intervenuto in aiuto ad Haftar, forse intende, così ringrazio anche Claudio del messaggio, in maniera più fisica, più corposa, più massiccia. Umberto, sarebbe un rischio incredibile, no, scommettere su un cavallo zoppo in questo momento. Sì, senz'altro, è la brigata 604 comunque. Sì. Per quanto riguarda l'Egitto, qui dobbiamo fare una panoramica regionale, nel senso che, come al solito, la maggior parte degli stati che intervengono nel conflitto in Libia non hanno confini diretti con il paese, quindi non risentono delle ripercussioni dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della violazione dell'embargo sulle armi, da diversi punti di vista, in particolare da quello della sicurezza, comunque del conflitto libico. Quando parliamo di Egitto non dobbiamo dimenticarci dell'Algeria. La presenza di questi due importanti attori regionali ai confini della Libia prevede comunque una necessità comunque di un eventuale accordo tra i paesi che avevano trovato un meeting bilaterale assieme alla Tunisia, una specie di format attraverso il quale riuscire a discutere e cooperare per porre fine al conflitto in Libia. Dobbiamo ricordarci infatti che l'Algeria da qualche mese sta discutendo di un progetto di revisione costituzionale, secondo determinate bozze vi è anche l'abbandono del principio storico della non interferenza degli affari esterni del paese e molti hanno associato questo all'andamento del conflitto in Libia, per cui ogni eventuale offensiva egiziana comporterebbe una reazione regionale anche da parte dell'Algeria e di altri vicini. Sì, e nelle parole di Umberto Profazio, quella che è l'importanza anche di altri attori vicini, per il momento sono rimasti veramente ai margini, se non forse a tratti la Tunisia, ma anche appunto l'Algeria. L'ultima domanda, Umberto, invece riguarda la produzione di petrolio. Sostanzialmente è over, è fuori, insomma, non si estrae più petrolio, non lo si esporta più, questo grazie alla mossa generale di Haftar. Però in un momento in cui il mondo petrolifero soffre di sovrapproduzione, adesso per che cosa si combatte esattamente in Libia, se non si combatte per i pozzi di petrolio? Ma io resto sostanzialmente scettico su questa interpretazione, perché secondo me il petrolio continuerà a essere uno dei principali driver del conflitto in Libia. Per capire l'importanza basta accennare alle conseguenze appunto di quanto hai detto tu, dello scoppio dei terminali petroliferi e del blocco della produzione in alcuni importanti giacimenti sotto controllo di Haftar, appunto, che è avvenuto pochi giorni prima della conferenza di Berlino. Essa ha avuto un effetto dirompente sulle finanze del GNA, del governo Accord, e qualora perdurasse potrebbe avere effetti anche micidiali sulla tenuta della coalizione di milizie che vengono pagate appunto dal GNA. Certo. Ecco perché penso sia importante per Sarraj prendere il controllo di queste, perché questo potrebbe aprire strada appunto a un'eventuale avanzata lungo il crescente petrolifero, far ripartire la produzione e le esportazioni. D'altra parte è anche vero che comunque quando parliamo del conflitto in Libia parliamo di dimensioni, quella interna e quella esterna, ecco. Nella dimensione esterna bisogna fare riferimento anche al ritorno di questo concetto della politica di potenza che tende a mettere ai margini un multilateralismo che diciamo in fase di declino da diversi anni. Decisamente. In Libia quindi il fattore principale è sicuramente il petrolio, ma stiamo assistendo comunque a una battaglia per la supremazia regionale con chiare implicazioni dal punto di vista degli equilibri internazionali, come è stato evidente dall'invio dei jet russi. Certo. a Giufre, dalla risposta degli Stati Uniti dell'Africa. Quindi direi che in sostanza il tardivo è l'incostante approccio con quali i governi, quello americano e quelli europei, hanno gestito la crisi è particolarmente preoccupante, perché rischia di mettere sostanzialmente a rischio il fronte sud della NATO. Grazie mille Umberto Profazio per essere stato con noi. NATO Defense College Foundation ha ribadito, come dire, l'attendismo, l'evanescenza di una certa politica, soprattutto europea, l'abbiamo detto tante volte, ma anche italiana, sul quadrante libico, mia modestissima opinione ovviamente. Grazie mille Umberto Profazio, buona giornata e buon lavoro. Manca pochissimo, Valeria Bernardi, non mi lanciare l'ordine perché rispondo velocissimamente a un ascoltatore che mi rimbrotta perché non ho ricordato che lo Stato israeliano occupa militarmente Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme. Gaza non più, questo dal 1967, costruisce illegalmente colonie, altro che conflitto dell'acqua. Ho l'impressione che lei non conosca ciò che significa occupazione militare, forse non è mai stato in Cisgiordania o Gaza. Peccato, mi dispiace, deludela, ci sono stato, ma non possiamo in una brevissima notizia dei nostri dossier internazionali ricapitolare tutto il conflitto israelo-palestinese. Ci torneremo e, se avrà piacere, anche potrò riportare quelle che sono state le mie testimonianze e lunghe permanenze proprio nei territori palestinesi. Nessun luogo lontano è un flusso, non riusciamo a esaurire tutti i temi e tutte le spigolature di ogni tema in ogni puntata, per cui vi rimando all'ascolto di domani con la sigla. E ovviamente con i ringraziamenti per tutta la squadra di Nessun Luogo, voi che siete stati all'ascolto, l'appuntamento dicevo è domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.